Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! E dopo la nostra usuale sigla, come sempre, di L'Esiper Sound con Psyché Rock, divenuta famosa per essere poi diventata la sigla di Futurama di Matt Groening, ricomincia per questo sabato sera una nuova puntata di Basement Records qui su Radio Wombat. Si preannuncia una puntata di quelle estreme, anche per i nostri standard, direi. E qui, come sempre, insieme a me, al mio fianco, per accompagnarvi in questo sabato sera, il fedele Ginox. Oggi più fantasma del solito, perché per le nostre precari condizioni tecniche, cioè stiamo trasmettendo, da dove trasmettiamo? Da una in mare in burrasca, praticamente. Quasi, sì. Cioè la condizione, la nostra condizione tecnica attualmente, immaginatevi le radio pirata, quelle che trasmettevano dal Mar Baltico. Esatto, oppure... con il mare in burrasca, siamo così. Oppure quelle inglesi che trasmettevano sulle navi in mezzo al mare del nord. Erano quelle, io ho sbagliato. Sì, no, ma oggi è giornata di burrasca, di sicuro. E quindi verrà fuori una puntata più pazza del solito. Tendenzialmente sì, più che altro io ogni tanto avrò delle lunghe assenze, perché funziona un solo piatto e il centrino l'abbiamo rifatto con il cartone. E... No, e quindi più do it yourself di così penso che non si possa fare, è veramente lo spirito Wombat questo. E poi c'è la grossa novità anche diciamo, di presentazione dei brani. Vero, sì, assolutamente. Vi diciamo cosa avete ascoltato dopo avervelo fatto ascoltare, perché neanche noi lo sappiamo. Esattamente, questa sarà la puntata proprio, cioè, sorpresa per tutti, perché anche noi abbiamo deciso di fare in questo modo, in questa puntata sarà. Quindi ogni disco sarà una sorpresa anche per noi, non ci siamo preparati niente, e questo penso che sia proprio l'improvvisazione della radio, ma nel senso, boh, in senso jazzistico del termine. Sì, se non che non siamo bravi come i jazzisti, non... Chi può dirlo? Aspetta, no, la fine, ah, no, della, scusa, puntata. E io sempre che, sempre, cioè, perché, ceneri sul capo, perché è la mia educazione cattolica. No, perché in questo caso, visto che siamo all'improvvisazione pura, o ci trasformiamo in dei jazzisti, o come si dice a Firenze, automaticamente ci trasformeremo in gente portata dalla fiena, proprio. Tendenzialmente. Quindi guardiamo di stare più sul lato del jazz, se ce la facciamo. I brani li chiameremo in principio brano numero 1, esatto, brano numero 2, bellissimo, brano numero 3, e soltanto dopo saprete che cosa stiamo ascoltando. Perché dovete sapere che la puntata di oggi, tutti questi 45 che abbiamo, sono dentro delle buste, e noi li prendiamo così, a caso, diciamo, tra virgolette, ma fino a un certo punto, e poi li mettiamo sul piatto e vediamo un po' quello che viene fuori. Ora, non proprio così a caso, magari un'occhiatina prima, perché insomma, veloce. Perché i tempi radiofonici nostri sono pam pam pam pam. Esatto, quindi tam tam tam tam, e guardiamo cosa ci viene e fuori. E quindi ora mi alzo e vado a mettere il brano numero 1. Vai a mettere il brano numero 1 mentre io rinfresco la memoria ai nostri ascoltatori su come mettersi in contatto con noi e su come comunicare con la nostra benamata radio. Ovviamente il sito è sempre il nostro affezionatissimo, che se state ascoltando il podcast invece della diretta conoscete di già, ovvero wombat.noblogs.org. La nostra mail per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net, dove tra l'altro ci manderanno, se diventeremo della gente portata dalla fiena dopo questa trasmissione. I nostri canali social, visto che c'è il nostro buon Ginox, non ve li dico, tanto li dovrete conoscere, cioè li conoscerete di già, se vi impegnerete ci troverete, anche se non ve li dico, e non ve li dico per rispetto a Ginox, come sapete. Però la novità è che ci potete sentire, se siete nell'area fiorentina e se siete, diciamo, fortunati nel trovarvi in una delle nostre zone di trasmissione, diciamo, dove si capisce quello che stiamo dicendo, e vi potete sintonizzare la vostra autoradio o la vostra radiolina sulla frequenza 1359 della M, in modulazione di ampiezza, come si direbbe in gergo tecnico. Però insomma, fateci caso a questa 1359 se siete nell'area fiorentina, almeno potrete anche comunicarci dove ci sentite bene, dove il nostro segnale invece sembra solo una comunicazione degli alieni da Venere o anche qualche posto più lontano, è solo rumore bianco in pura sperimentazione noise. Però al di là di questo traccheggiamento, come si direbbe, e adesso partiamo con il disco numero 1, la prima sorpresa. We'll be right back. cause I'm a loving. Ooh, baby, I'm a loving. Insomma, direi che come primo disco sorpresa ci è andata parecchio bene, Sì, sempre perché... di Fortunelli. Perché poi era anche super sprezzante. Sì, cioè, poteva non subito esserlo, era allegro perché... Otis Redding non è detto che per forza becchi... No, però insomma, come si dice, si sapeva che sarebbe caduti da in piedi, Sì, sì, è vero. Cascati dal ritmo, come si dice a Firenze. Non sapevamo però se sarebbe stata ballereccia o se sarebbe stato un lentazzo di quegli epici. È vero, però qualitativamente, insomma, eravamo abbastanza coperti anche solo per il nome. Più, te lo ricordi? Certo, Love Man di Otis Redding. Ok, va bene. Partiamo con questo puro stile soul. Solo precisare che se alla fine del brano sentite che rispetto a prima che sembrava che fosse tutto normale, no? Invece si fa quell'effetto un po' delle cose, è perché il centrino nostro autoprodotto fa questo particolare tipo d'effetto che comunque è ricercato. Assolutamente. Nel senso, io ho proprio imparato a ritagliare il centrino in modo che gli ultimi faccia l'effetto 30 secondi siano un po', capito, a introdurre la fine del brano. Esattamente, almeno poi ci rendiamo conto anche che sta per finire. Sì, queste sono, ci risediamo sulle sedie. Sono finezze tecniche che vi sveliamo qui sono anni e anni di pratica che portano a queste finezze. Io ora tecniche. Mi alzo, allora vado a preparare il brano numero 2. Esattamente, e il brano, come dire, io non posso altro che finire, insomma... Voglio dire, Otis Redding non penso che abbia neanche bisogno di presentazioni, perché è stato veramente un nome tutelare del soul, anche se questa canzone magari non era proprio una delle più conosciute delle sue, perché ovviamente ha fatto tantissimi, tantissimi successi. Questo era un disco stampato su Atlantic e l'anno, tra l'altro, non c'è scritto sopra il centrino stranamente, però ecco, gran disco da jukebox questo, devo dire, perché se da questa parte che abbiamo appena sentito c'era Otis Redding con Love Man, il lato B o il lato A, insomma, dipende dalle vostre preferenze, c'è Aretha Franklin con I Can See Myself Leaving You. E la copertina in cui era conservato in realtà era Deborah, cantata da Wilson Pickett. Mamma mia, anche la copertina, tanta roba, però Wilson Pickett non c'era dentro, però ci è andata bene lo stesso perché c'era Aretha e Otis Redding, quindi... ci possiamo stare che non ci fosse Wilson Pickett, anche se me lo sarei ascoltato molto volentieri, perché anche con lui era proprio... Lo troveremo, prima o poi troveremo quello vero. Guardiamo se è disperso. Io ho preparato il secondo brano, vado a fare play? Sì, mandiamolo, dai, il secondo brano misterioso e guardiamo cosa ci capiterà. Get it! sing and dance this evening. I want all you good dancers to come on, sing and dance with me this evening. Yeah! You know, the Indians had a thing. Yeah! It was a hip thing. They were singing and dancing. They did a thing something like this. Yeah! It sounds so after people this evening. Good God! You know, the Watu's Africans sing and dance. Yeah! The Africans, all the Africans got a thing. They sing and dance. But you know what? Look here, I want all the girls to come on, sing and dance with me this evening. Come on, girl. Yeah. Ooh, you sound so sexy. Lord have mercy. Come on, fellas, do your thing. Good God. If I can't, don't do that thing. Good God. Everybody come on. Okay, I want all the girls one more time to do your thing. Come on, girl. Yeah, it sounds so good. I want all the boys to do your thing. Yeah, a little louder than that. The barcade got two hornbills, Ben and Harvey. They gonna sock it into your family this evening. Come on, Ben and Harvey, sock it to them. Get it on. E il secondo 45 misterioso era Sing and Dance dei Bar Keys. Direi che c'è andata di stralusso anche stavolta, perché insomma Bar Keys, altri gran pezzi da 90, anche se non ai livelli di Otis Redding, però insomma Bar Keys hanno fatto... Siamo rimasti hanno fatto la storia, funky, assolutamente sono fanchissimi. E se non mi ricordo male, ora ovviamente non avendo preso appunti né niente, mi sembra che i Bar Keys fossero la band di una famosa, cioè la house band, come si dice, di una famosissima etichetta discografica. Mi sembra fosse, non ti voglio dire una cavolata, ma la Stax, cioè cosa, la house band, cosa significa? Che era la band che suonava negli studi per gli artisti che magari erano artisti singoli, solo cantanti, e avevano bisogno di una backing band appunto per registrare i loro singoli. E appunto i Bar Keys, se non vado errato e non sto dicendo una boiata, erano la house band di... Comunque, anche se diciamo cose sbagliate, facciamo l'errata corrige nella prossima puntata. Sì, no, puntata. Poi... Così abbiamo già pronta la roba per la prossima puntata. Gli appunti. Fammi vedere il centrino del disco. Ah, ora andiamo a cercare il centrino del disco. Guarda, l'ho lasciato perfetto. Abbiamo recuperato il centrino del disco. Ora in diretta vi leggiamo il centrino del della disco. Della Stax. Vedi, della allora Stax, sei bravissimo. Esatto. Della Stax di Memphis, Tennessee. Questo è... Neanche qua c'è scritto la data, però insomma... Senti, Barchise, le date, si vede, non roba. Interessano a nessuno. In alcuni ci sono. Noi li collochiamo comunque negli anni 70. Sì, no, quello sicuramente. Quello... Io tiro a indovinare, secondo me era del 73. No. Secondo me era prima. Va bene. Vedete, nella prossima puntata vi avvertiremo se ci ricordiamo su chi io è andato più vado vicino. A preparare il disco numero 3. Number 3? Chissà cosa ci aspetterà nel number 3. Lì vedo un centrino oscuro. Vedo... Beh, e poi da qua giù è quasi impossibile definirlo. Lo potremo definire solo dopo che partirà questo disco. Yo! Starting to worry me. I ain't ready for no family ties. Nobody's gonna hurry me. Just keep it friendly, girl, 'cause I don't wanna leave. Don't start clinging to me, girl, 'cause I can't breathe. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you and I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. Hot-blooded woman child, and it's warm where you're touching me. But I can tell by your trembling smile, you're seeing way too much in me. Your life get tangled up with mine, 'cause I'll just leave you. I can't take no clinging vine. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you and I'll set you free. Baby, baby, get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. 'Cause I'll just use you and I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. Questo l'avevo cioè appena è partita la canzone l'avevo riconosciuto perché mi ricordavo di aver già passato qui a Basement Records uno dei suoi dischi, è Mac Davis, e effettivamente insomma questa volta ci è toccato il lentone. E effettivamente era abbastanza probabile visto l'alta percentuale. Io, se devo dire la verità, gli ultimi 40 secondi li ho accelerati. Ha fatto bene, hai fatto bene. No, ma l'hai picciato malamente. Era un po' per compensare il fatto che fin dall'inizio avevo iniziato a fare sì, così ci si accorge meno. Era perché vedi sul lento magari l'effetto psichedelico si nota di più. Noi avevamo tirato sulla musica dance, esatto. E invece non avevamo pensato che dovevamo fare il centrino apposito per, anche quello ottimizzato per il ballo del mattone. Esatto, sì. Comunque vabbè, Mac Davis, scusate, me lo ricordavo perché appunto nella precedente mandata una canzone di Mac Davis che avevo scoperto appunto per Basement Records mi era piaciuta talmente tanto che che poi me la sono andata, insomma, a cercare. Ora addirittura l'ho messa nella mia playlist in macchina dopo Basement Records, wow, che era One Hell of a Woman, e questa invece era Baby Don't Hook It on Me, appunto, di Mac Davis, e 1972, qui c'è qui abbiamo la data. Ah, non possiamo più tirare a indovinare. Quindi. Non possiamo più tirare a indovinare. Facciamo questo era un argomento di discussione, però. Era qui c'era scritto, però ti posso trovare un appunto segnato da Stefanone sul centrino, che wow, già mi avrebbe dovuto far riflettere un po'. Lascia perdere, non lo mettere mai. No, praticamente c'era già scritto che era un lentone. Ah, ok, già era il pezzo da limone, quindi. Sì, no, okay. Sai, quella c'era quella vecchia regola delle discoteche alla fine degli anni 60, inizio anni 70, che imponevano ai DJ che ci dovesse essere un tot numero di lenti, cioè perché non è stata conservata? A me mi piace questa cosa. La puoi riutilizzare, era perché insomma era un po' limitativa, ecco, cioè mi sembra ogni massimo due pezzi veloci ballabili ci dovesse essere un lento. Certo, per ballare chic to chic. Chic to chic, capito? Quindi insomma dentro quelle due buste di lentoni ce n'è parecchi. Allora io procederei ad andare a mettere il 4. Alla quarta, sì. E magari questa nota scritta a penna mi avrebbe dovuto far pensare, però spero che vi sia piaciuta comunque e che la stiate ascoltando in buona compagnia e quindi abbia fatto il vostro gioco per questo sabato sera, ecco, questo Mac Davis. Ma andiamo a sentirci il 45 numero 4. Go! Anche qui, dai, alla fine, anche se era abbastanza pop questo pezzo, direi che non siamo proprio caduti malissimo. E questa era Soul Deep dei Box Tops, che vi dirò, non mi suona nuova questa canzone, però a leggere il titolo non vi saprei dire di più, però insomma mi sembrava un bel pop, non proprio così di quelli proprio pensati solo e solamente per la classifica, però insomma un pezzo pop fatto e costruito per bene, non mi sembrava proprio così spudoratamente commerciale, mi sembra che abbia retto abbastanza l'impop. Mi sembra abbia retto abbastanza bene l'impatto con il tempo. Sì, sì. Era decente per riprendersi, sì, dopo il lentazzo. Sì, sì, sì, non mi sembrava per niente male. E ma anche qua, ecco, qui non c'è scritta la data, caro Gino. Tira a indovinare. Secondo me questo era un 69. Ma anche se anch'io avrei detto fine 60. Secondo me non è 70 questo. No, non sembrerebbe. Qui siamo più sulla fine dei 60. E non era niente male questi. Non erano niente male questi box tops. Io ho preparato pure il quinto. Se vogliamo procedere celeri sul quinto, direi Gas. Gas qui a Basement Records su Radio Wombat. Find out what went wrong when the sun makes us fry. mamma, qui avverto dell'acido lisergico, mi pare, eh? Direi, non se vuol mettere, al di là del centrino, però avverto proprio dell'acido lisergico in questi solchi. E questo 7 pollici che gentilmente il buon Ginox mi ha appena passato nelle mie mani con questi arpeggi che guardando i solchi sul 45 ci chiedevamo cosa fossero. Era molto particolare da guardare, perché a un certo punto, esatto, i solchi si diradano e rimane, capito, quell'arpeggino con la vocina, perché... per poi tornare con le chitarre distorte tipo V, cioè queste cose, esatto, un po' perché così. Il bello dei vinili è anche proprio leggerli per vedere, di intuire come cosa sarà, succederà. Cosa succederà nel disco, perché ovviamente i solchi hanno diversi, diciamo, diverse sfumature che dipendono da cosa c'è, cioè, si può intuire si se può c'è intuire. Un brano strumentale, certo, o comunque con pochi strumenti registrati possiamo intuire se c'è uno stack, sì, o se magari è un album, si riconosce la divisione pezzo per pezzo. Era anche questa la cosa bellissima del del vinile, però non abbiamo comunque, detto non era un pezzo dall'ascolto facile questo, no, però era un pezzo di difficile ascolto. Però, era scarno, era scarno, perché c'era solo, c'era arpeggino, chitarre, sì, cioè era proprio un pezzo molto ridotto all'osso. A me è piaciuto, no, bello, molto, bello, sì, sì, molto bello. E questi erano The Taste con Born on the Wrong Side of Time. E l'anno non c'è, però come già te l'ho detto, secondo me qui siamo psichedelia, eh. Quindi qua è fine. Fine 60. 60. Sì, sì, fine, sì, 60. Sì. Secondo me qui collochiamoci sempre lì, più o meno qui, come secondo gli altri. Stiamo trovando delle assonanze temporali tra i brani, 1900 completamente, anzi, a caso. No. Ora no, viene fuori del 95. No, perché era il lato sbagliato del 45, perché stavo leggendo dall'altra parte, ho trovato l'anno, però dietro, anche questo essendo un disco da jukebox, dietro c'era I'm Free degli Who, che è del 69. Vabbè, però c'è nel jukebox, non è che finiscono con Ali a distanza, e anche questo è del 69. Andate. E allora facciamo 69. Ci sto. Anche perché in queste due bustate di 7 pollici la maggior parte sono tutti del triennio 69-72, poi magari c'è qualcosa 67-68, c'è anche qualche cos'altro 73-74, ma più o meno questi ritrovamenti risalgono tutti a quegli anni lì. Io mi assento come sempre a preparare il sesto, no, ho perso conto, vabbè, il prossimo. No, è il sesto davvero, bravo, bravo, avevo perso anch'io perché non mi ricordavo più a che punto eravamo. E guardiamo un po' il sesto 45, che sorprese ci riserverà. Via! You'll say excuse me. Haven't I seen you some? passion. So he makes a suggestion. Come up to my place for some coffee or tea. He's got you where he wants you. Tell you about a face reality. C'è andata, direi che c'è andata parecchio bene anche qua, eh? E guardiamo un po' chi sono questi. Sono i The Jaggers con questo brano si intitolava The Rapper. E devo dire niente male, cioè un bel tiro, un bel suono. Con questa siamo campana in controtempo. Questo filotto di roba tutta a tema. Sì, non sì, abbiamo fatto delle robe, noi abbiamo detto tiriamo a caso, in realtà sembra che ce la siamo preparata. Cioè, lo giuriamo che non è vero. Sta venendo molto più musicalmente a tema di quando la prepariamo. Si è messi male. Di fatto stiamo coprendo, siamo partiti, capito? Il brano più così, più Britpop, psicadelico, poi adesso siamo tornati su una roba abbastanza simile. Bello questo, e poi probabilmente, non so se... Questa divagazione finale, c'era anche un applauso che abbiamo tagliato, quindi non so se era un applauso in studio probabilmente. Sì, direi di sì. Comunque sembra che il gruppo si chiama The Jaggers, non so se sarà in onore di Mick dei Rolling Stone. Vabbè, il pezzo si intitola The Rapper. No. Sì, no, è un gran mischione. E come curiosità, volevo dire che questo 7 pollici, anche questo rigorosamente in edizione jukebox, perché insomma quando le prendevi in edizione jukebox, come si era già detto, potevi farti diversi dischi spendendo anche parecchi soldi in meno. Sì, facevi raccoltoni. Esatto, e è pubblicato su etichetta Kama Sutra. Ah, vedi, infatti sentivo, capito? In me sorgere una pulsione erotica. Ha visto? Mica a caso, E poi... Credo che proprio la copertina non sia la sua, ma non è detto. La copertina è fantastica perché è American Recordings con sottoscritto London Records e a piede della copertina Italia Rom Milano. Cioè, praticamente c'è tutto. Ristampavano qua su licenza. Praticamente c'è tutto. Sarà la London Records che ha registrato in America e è stato stampato in Italia su licenza della London Records. Fantastico, cioè proprio. E Kama Sutra? Ah, Kama Sutra è il centrino del disco originale. È vero, c'hai ragione. Però chissà questa copertina di quale disco. Io ne ho tante, però così. Ne ho diverse così, sì. Fantastico. Sì. Ma facevano per sviare gli indizi? No, io penso che ti davano tutte le informazioni del caso. A caso? Sì, erano un po' comprensibili, però era effettivamente tutto quello che era passato nella produzione di quel disco. Bellissimo. È così. Bellissimo, bellissimo. Oh, io c'ho il settimo, eh. Dai, vai con il settimo, vai. Che ci tocca? Vedo un centrino bianco? Vedo un centrino bianco che sta iniziando a girare? Via con Basement Records. Ooh. Abbiamo pescato buon Ginox qua. Qui parliamo proprio di roba di nicchia, Proprio allora, qui abbiamo vietata la vendita, Promotional Records, Bel Disc Italiana, e questa era Antonella, Antonella punto, con il ragazzo di Piazza di Spagna. Ah, ecco perché si parlava sempre di fontana, l'acqua, certo, Roma, non c'è più Roma. La vela. L'ho capito dopo io. Non c'è più la vela è la perché vela. Secondo me il ragazzo di Piazza di Spagna aveva finito le cartine e allora aveva finito le vele, come si suol dire. E forse era a giro per Piazza di Spagna a cercare le vele, Però al di là di... non era male neanche questo, no, con era questo anche di progressi. Sì, diviso in varie parti. Poi anche questo era psichedelico, Da Antonella non me lo sarei aspettato, ti ecco. Aspettavi una canzonetta, invece boom, aspettavo super impegnato, progressive. Ma aspettavo proprio la classica canzonetta sanremese, di quelle proprio infime. E invece no, abbiamo beccato un pezzaccio, questo ascolto ancora più difficile di tutti gli altri. Esatto. Perché gli altri era più easy. Sì, questo è un ascolto impegnato. Un disco complesso di Antonella. E varrebbe la pena anche dire due parole su questa copertina, che ovviamente è la copertina di un altro disco, chiaramente. Il disco dei I Corvi. Però comunque rimane, cioè anche quando non becchiamo la copertina, qualche volta si becca l'assonanza di genere. Sì, sì, i Corvi mi sa che erano beat, se non voglio dire nei una Corvi, boiata. Chi era il cantante dei Corvi? Non lo so, mi prendi alla sprovvista. Comunque sì, era roba beat. Secondo me erano beat e cioè avevano questi visi qua. Ora voi purtroppo non li potete vedere, però sono niente male. E anche il titolo del 45 giri dei Corvi prometteva bene, ovvero datemi un biglietto d'aereo con cui concordo. Prima di cantare nei I Ribelli, erano i ribelli, non erano i Corvi, giusto. grandissimi ribelli. È vero. Aveva anche iniziato a fare una retrospettiva. Proprio una puntata di Tonight Alive su Demetrio Stratos, che poi ho abortito perché sarebbe assomigliata troppo alla puntata sugli Area del rovescio della medaglia. Ha fatto tantissime, uno sterminio di cose diverse. Però la parte centrale ovviamente sarebbe stata, e quella più importante sarebbe stata quella degli Area, anche perché poi insomma la seconda parte della sua carriera, che è stata estremamente sperimentale sull'uso della voce come strumento, non sarebbe stata facile, quindi insomma avrei finito per ricalcare un po' la puntata del rovescio della medaglia e ho abortito. Bravo, che qua non è che noi abbiamo idee brillanti, non è che andiamo sempre a raccattare sempre le stesse cose. Però era arrivato a non annoiare il pubblico. Era arrivato a un buon punto dell'elaborazione di questa puntata per poi arrivare a dire no, non la faccio. Vabbè, io però vado con l'ottavo. Sì, andiamo con l'ottavo e ricordiamo che questa era Antonella con il ragazzo di Piazza di Spagna, perché merita insomma comunque di essere ricordata. E questo è l'ottavo pezzo, Gino. Yeah. If you catch a robber, dirt in your face if your scheme falls through. Pay close attention to my story, you'll find every word is true. Junk man standing on the corner, selling death, no conscience has he. In the name of God, won't somebody stop me? Think about the children. It's a matter of life and death, can't you see? Ain't no time to stand back and point your finger. Time to point your finger. No, no, no. you're feeling so uptight. Vabbè, ah, anche qui siamo con dei fesi massimi del soul, direi, perché questi ovviamente erano i Temptation, però con un pezzo che non avevo mai sentito, in effetti. Ma si apre con un'overture. Tra l'altro. Poi a un certo punto sembra che ci sia un clavicembalo. Sì, sì. E sì, poi sì. Inizia la vocina. In effetti... Deve essere un brano minore sicuramente dei Temptation, però direi ricercato, perché insomma con questo overture poi andava al di là del classico suono soul dei Temptation, direi. Temptation, che se non sbaglio... Che anno, questo c'è scritto? 1971. Vedi. I Temptation, se non mi sbaglio, erano di casa Motown. Sì, però hanno poi fatto anche altra roba. Questo non è mica della Motown, o sì? No, però su etichetta Gordy. Ah, ok. Allora, il capo della Motown, sì, era Barry, sì, Gordy, sì, sì. Allora hanno fatto tutto, per immensa modestia, perché sono passati dal soul fino al funky, cioè hanno coperto anche perché 10 anni buoni di hanno di avuto storia. Nella loro formazione diversi campi organico, sì. E hanno avuto veramente dei grandissimi cantanti soul che sono, sì, passati tra le fila dei Temptation. I Temptation era proprio una scuola per poi... per poi andare oltre. Il primo che mi viene in mente è Eddie Kendricks, per dirti, però cioè, ne è passati tanti dai Temptation, hanno fatto veramente la storia della musica soul, anche la storia della Motown, insomma, anche la Motown. Le fortune finanziarie, anche perché hanno comunque avuto tanti grandissimi successi di classifica, anche molto meritati. Temptation mi piacciono tra i gruppi vocali neri maschili, sono tra i miei preferiti insieme ai Four Tops, direi. Vado con il nono. Andiamo con il nono, vai. Cosa, il nono pezzo? Guarda lì, etichetta antifa, tra l'altro, Rossa e nera, yeah, dell'Atlantic. I try to reason, and I tell myself you'll return, but you are gone. And I know you're gone. I'll ask you to do, 'cause I want you back. sometimes I've lost you, baby. I've lost you, baby. You are gone. Mamma mia, partiva che sembrava il lentone della vita e invece si evolve con questo coro finale e poi veramente questo basso grassissimo che proprio dà anche un tono funky, anche se è una canzone lenta. Bella, bella, mi è piaciuto anche se era un lentone, non so se avete riconosciuto. C'è stata una progressione, siamo partiti ballerini, siamo diventati psichedelici e poi abbiamo iniziato a evolvere verso pezzi lenti ma sempre di qualità. Questo era lento, però aveva anche una sua evoluzione, sì. Diciamo, parte lento. E poi insomma non è che finisca poi così lento. E invece io ho visto chi è la cantante di questo disco, avrei pensato che fosse un lentone di quelli proprio, anche questo, di quelli proprio infimi, da ballo del mattone, e invece no, perché questa era Gone Away, che originariamente era un pezzo scritto da Curtis Mayfield e da Donny Hathaway, che tra l'altro Donny Hathaway è anche presente a suonare il piano in questo disco. Il piano è suonato da Donny Hathaway, un altro grande ma magari poco conosciuto dei grandi del soul, ma è stato un grande anche Donny Hathaway. E Roberta Flack, se non ve la ricordate, Roberta Flack è una grande cantante soul, passata alla storia perché era colei che cantò per prima e rese famosa Killing Me Softly with His Song. Boh. Davvero, era Roberta Flack. L'originale era di un altro pezzaccio. L'originale era di Roberta Flack, poi passato, reso famoso al grande pubblico nella versione dei Fugees degli anni 90, però l'originale Killing Me Softly with This Song era di Roberta Flack. Cavolo, davvero. E questo era di nuovo e qui anche qua l'anno non mi sembra di leggerlo, però secondo 69. Me forse inizi 70, dai. La fortuna mettiamo un po' di dubbi, però insomma io direi in quel biennio lì più o meno. E anche se pensavo fosse, dopo aver letto il centrino del pezzo, pensavo fosse che si fosse scelto un lentone di quelli proprio infimi. All'inizio era così, molto bello, voce soul, ma era lento. Sì, però era un pezzaccio lo stesso. Però devo dire che notevole, mi ha riservato delle piacevoli sorprese. Ora siamo all'ultimo. Non si dice mai è l'ultimo, diciamo che è l'ultimo per quello, per la puntata di stasera. Ah, vabbè, d'accordo, intendevo quello. Poi torniamo. Poi torniamo. Tanti, sempre con i tempi da Basement Records, ovviamente. Comunque, per questa sera è l'ultimo, non mi ricordo se è il decimo o l'undicesimo, ho perso il conto. Se non contiamo la sigla è il decimo. È il decimo, vedi, 10 precisi. Perfetto, madonna. Oggi è tutto a caso, ma è tutto nella puntata casuale forse è sembrata ed è funzionata anche, direi, molto bene. Vi devo preannunciare che lo metto. però poi causa impegni precedenti vi saluto ora. Precedentemente presi. Sì, esatto, era quello che volevo dire. No? Vi saluto adesso. Vi saluto adesso, faccio click, faccio il mio dovere di picchio. Esatto, e allora... va a fare click e dai, poi vi abbandono. Gino, saluta ora e poi finirò... ci vediamo alla prossima puntata casuale. Finirò io di salutare i nostri grazie ascoltatori. Allora salutameli te, dai. Sì, sì, te li saluto io, dai, non ti preoccupare. Come si dice, rappresenterò. Bene, e questo è il 45 finale della puntata di stasera. Ciao Gino! Ciao Ginox! Questo spero che l'abbiate riconosciuto istantaneamente, ovviamente è Elton John, il nostro pezzo di chiusura di stasera. Devo dire che anche come chiusura ci è andata abbastanza bene, un Elton John del 1971 con questa Into the Old Man's Shoes, magari anche questo non un pezzo proprio conosciutissimo della discografia di Elton John, però Elton John 1971, insomma, era abbastanza, anche qui si cadeva abbastanza in piedi, niente male neanche questa Into the Old Man's Shoes. E quindi ormai è rimasto solo e abbandonato da Ginox, che è dovuto scappare. Non mi resta altro che fare i saluti finali per questo sabato sera su Radio Wombat qui da Basement Records, e augurarvi un buon proseguimento di sabato sera e darvi appuntamento al prossimo sabato sera con Tonight Alive. E Basement Records tornerà tra un paio di sabato sera per sempre per allietarvi con i suoni vinilici recuperati da vari passati recenti, remoti, trapassati. E buon sabato sera a tutti qui da Dalai Lama e da Basement Records, e ci sentiamo settimana prossima. Wombat! Wombat, all we hear.